Ti ringrazio per il baule. Io stasera, ispirato dal Magolinus che abbiamo avuto qualche settimana fa, voglio fare anch'io un mio trucchetto, no? Siete con me? Riusciremo a fare questo trucchetto insieme? Quindi ho il mio baule, come Magolinus aveva il suo baule, ho i miei palloncini che magicamente a un certo punto prenderanno il volo, ok? Pronti a tutto questo? Abbiamo dei rappresentanti della chiesa, del Magolinus, e quindi loro riporteranno che il fatto che il Magolinus ha un discepolo qui a Modugno, e andremo di gloria in gloria anche in questo, di magia in magia, di trucchetto in trucchetto. Detto questo, io voglio anche dare il saluto a tutte le persone, perché ora che sono qui sopra vedo delle facce nuove. Grazie di esserci, è molto bello vedervi. Alcuni non li vedo perché non li ho visti per l'interestate. Il Signore ti benedica, evidentemente sei stato in spiaggia, non ho rancore nei tuoi confronti. Sono molto contento che sei tornato in chiesa, è bello riaverti. Se ci hai seguito su YouTube, è bellissimo, vero Giuseppe? È bello seguire su YouTube le prediche. Vieni qui. Tu quando è che sei mancato? Che domenica sei mancato di agosto? Due domeniche fa. E sei pentito di questa cosa? Tantissimo. Allora io ho incrociato Giuseppe e gli ho detto: Giuseppe, domenica scorsa non ti ho visto, che è la cosa giusta che noi tutti dovremmo fare. Ebrei 13 ci dice questo, di incitarci vicendevolmente alle opere buone. Quindi ho chiesto a Giuseppe, non ti ho visto domenica scorsa, e la tua risposta è stata: ma ho seguito dallo streaming. Ed è lì che mi sono cadute le braccia, perché non è possibile dare una risposta del genere, perché lo streaming non vale. Amen? Potete ripeterlo con me, confessarlo ad alta voce? Lo streaming non vale. YouTube non è la stessa cosa. Confessalo con me. YouTube non è la stessa cosa. Confessalo con Giuseppe, che ora si sta pentendo. YouTube non è la stessa cosa. Bravo. Mancherei a qualche domenica di settembre? Mai più. Mai più. Mai più. Sei sotto i riflettori. Sei sotto i riflettori. Grande Giuseppe. Vedo anche che c'è Ariette in fondo e anche un pastore, il pastore Peter dall'Olanda. Vogliamo fare un applauso anche a loro che sono qui, è una benedizione. Operai che hanno seminato, e la nostra chiesa è nata per l'opera di operai olandesi. Naturalmente la più bella operaia è mia madre, che ha trasferito tutta la sua bellezza al suo figlio più piccolo. Infatti sono il più bello dei tre, non lo dite a miei fratelli, oggi non ci sono, quindi posso dirlo. Allora stasera, detto questo, parleremo di qualcosa di molto interessante. Parleremo di palloncini colorati che hanno delle faccine. Al mio tre si alzeranno in volo. Siete pronti a contare con me? Uno, due, tre. Che tentativo patetico. Che figuraccia. Ricontiamo di nuovo. Uno, due, tu incoraggia i palloncini. Uno, due, senza farti vedere. Tre. Eccoli là che volano un po' timidamente. Mamma mia, che tentativo ma riuscito. Va bene, comunque si vedono. Dai che state andando, si è intrecciato tutto qua. Va meglio ora? Facciamo un applauso di incoraggiamento. Allora, i palloncini hanno delle faccine. Vi sono familiari queste faccine? Sono quelle faccine che utilizziamo su WhatsApp, le cosiddette emoji. Quanti usano le proprie emoji nel proprio cellulare? Tutti, bravissimi. Perché io partirei da questo. Noemi, tu hai alzato la mano. Non dire bugie in chiesa. Io partirei da questo. Utilizzate per piacere le emoji. È importante utilizzare le emoji, perché a volte le frasi non si capiscono con che tono vengono fatte, no? Se tu dici buona giornata, punto, e tu ti ritrovi all'altra parte del cellulare a leggere buona giornata, punto, ti chiedi: ma è arrabbiato con me? Non vuole più parlare per il resto della giornata con me? Sta chiudendo la conversazione? E questa è Noemi. Noemi, ti voglio bene, però metti una faccina, un sorrisetto, un cuoricino, un abbraccio, qualcosa. Vogliamo incoraggiare Noemi a utilizzare le emoji? Facciamo un applauso a lei che da oggi utilizzerà le emoji. E qui abbiamo diverse faccine, perché io stasera voglio parlare di emozioni, no? Abbiamo la faccina della perplessità, la faccina della paura, del terrore. Abbiamo la faccina della gioia. Sono impossessati questi palloncini. Sento di cacciare qualcosa qua. C'è la faccina della... Questo è un sorriso. Mamma, questo è un sorriso. Non significa che stai piangendo, questo significa che stai ridendo talmente tanto che ti vengono le lacrime fuori, no? Quindi se qualcuno annuncia una brutta notizia, per piacere non mettete questa faccina. È un problema se mettete questa faccina, ok? È imbarazzante. Questa è una gioia talmente tale che fa portare, che fa scendere le lacrime. E io voglio parlare di emozioni, perché le emozioni sono proprio come questi palloncini, le emozioni salgono e le emozioni scendono, le emozioni vanno attorno, è tutto pensato, tutto questo lo sto facendo apposta, no? Le emozioni vanno attorno e si ingrovigliano, le emozioni sono qualcosa che noi viviamo tutti i giorni, quotidianamente, e oggi noi ci troviamo davanti a una nuova stagione. È una nuova stagione, settembre è un po' come gennaio, no? Che ti fai tante buone promesse, ma hai davanti una nuova stagione, ti lasci alle spalle agosto, la vacanza sulla spiaggia, il chalet in montagna, il B&B e l'hotel che hai visitato. Mi state tutti guardando come, ma chi è andato? Ma quando? Io sono stato a Valenzano, io sono stato a Bitonto, io sono stato a Bitetto. Però ecco, abbiamo delle emozioni che in questa stagione, in questo periodo, vanno in alto e vanno in basso. Penso ai ragazzi che devono riprendere la scuola. Vi ricordate quando c'era da riprendere la scuola? Le emozioni, come si agitavano dentro di noi, la paura di chi incontravi, la paura dei nuovi professori, dei nuovi maestri, del nuovo istituto. Non che voglio mettervi ansia stasera, anzi voglio incoraggiarvi, la parte bella sta per venire. Però ecco, noi viviamo tutti delle emozioni altalenanti, perché le emozioni sono proprio così. Sono qualcosa prima di tutto di temporaneo, ce lo possiamo dire? Io voglio dirvi questa cosa, la voglio pure proiettare in modo tale che la possiate leggere. Le emozioni sono passeggere. Ripeti con me: le emozioni sono passeggere, non durano. A volte i risultati e le ripercussioni di determinate scelte fatte in virtù di determinate emozioni hanno una durata, è lì che dobbiamo stare attenti, ma le emozioni sono passeggere. A volte tu vivi delle stagioni dove sei turbato, amareggiato, confuso, e poi dopo qualche settimana ti guardi indietro e dici: però tutto sto turbine di faccine, di pensieri, di notti insonni, eppure non era un granché quello che ho attraversato. E Dio è rimasto fedele. Posso ricordarti questa sera che Dio rimane fedele, che Lui è vivo, Gesù è vivo e Lui è con noi sempre. Una delle promesse più ripetute nella Bibbia è che Lui non ci lascia e non ci abbandona. Lui stabilizza la nostra vita. Le emozioni sono passeggere e le emozioni, un'altra caratteristica, è che non dicono sempre il vero. È importante, non danno un'immagine realistica di quello che ci circonda, di quello che stiamo vivendo. A volte esaspera quello che stiamo per vivere, a volte gonfia quello che stiamo vivendo, la rende una cosa esclusiva, come se solo noi stessimo vivendo la sciagura più terribile di questa terra. Perché? Perché siamo emotivamente coinvolti. Ma non dobbiamo farci prendere dalle emozioni al punto tale da leggere la realtà in una maniera distorta, cioè sotto i filtri delle emozioni, perché le emozioni non dicono il vero. Le emozioni non dicono il vero. Lo puoi ripetere con me? Le emozioni non dicono sempre il vero. Le emozioni, una terza caratteristica, è che di conseguenza non sono affidabili. Noi non ci affidiamo alle emozioni. un cristiano che è emotivo e che è portato a e trascinato dalle proprie emozioni è un cristiano che è instabile e non è un cristiano affatto, perché la cristianità si basa proprio su una relazione con colui che si definisce roccia. Lui stabilizza il nostro cuore, lui stabilizza le nostre vie. Gesù dice che il comandamento per eccellenza, che riassume tutto, tutta la parola, è questo comandamento. Dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Il nostro cuore, la sede delle nostre emozioni, la sede delle nostre scelte, la sede di questi turbamenti interiori, deve amare il Signore. Questo è un comandamento che Gesù ti lascia questa sera. Ama Dio con le tue emozioni, affinché le tue emozioni non ti trascinano a destra, a sinistra, in alto e in basso. Ci rendiamo conto che le emozioni ci elevano e talvolta immediatamente dopo ci scaraventano a terra. Anzi, è molto comune, è proprio un fatto risaputo, che a seguito di un periodo dove viviamo estrema gioia, estremo entusiasmo, estrema passione per cose vissute, possiamo cadere in una condizione di estrema tristezza, depressione e angoscia. Noi dobbiamo riconoscere queste cose, perché queste cose, nel momento in cui le riconosciamo, non permettiamo a loro di dominare su di noi. Noi col nostro cuore amiamo Dio e Dio rende stabile la nostra vita sempre. Amen? Ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua, dice Gesù. Amalo completamente, totalmente, radicalmente, al 100%, in ogni stagione, attraverso ogni emozione. E io voglio parlare di emozioni, però alla luce di questa introduzione non vorrei essere frainteso. Io non vorrei che noi tornassimo a casa questa sera pensando che le emozioni sono sbagliate. Le emozioni sono tutte diaboliche. No, no, niente di più sbagliato. Altrimenti Gesù non direbbe: ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, perché sa che noi viviamo le emozioni e le emozioni sono qualcosa che Dio ha offerto a noi. Quale benedizione! Le emozioni che vivi sono un dono di Dio, e se sei privo di emozioni c'è qualcosa che deve cambiare in te. Vi ricordate il mago Linus? Quanto ci ha fatto emozionare, no? Quella mattina, eravamo insieme, quanto è stato bello vedere i suoi trucchetti, molto migliori dei miei, i miei stanno diventando sempre più tristi. E poi ha dato la sua testimonianza. Ora, io sono uomo e chiedo a ogni uomo qui in questa sala che rappresenta quella mattina e che alla sua testimonianza ha versato qualche lacrima. Lo possiamo ammettere apertamente? Vedete che bello, bravi uomini. Noi uomini dobbiamo emozionarci. È buono piangere. Ci fa bene piangere. Dai sfogo alle tue emozioni. Fallo. È qualcosa che Dio vuole. Nel momento in cui noi schiacciamo le emozioni, le eliminiamo dalla nostra vita, rischiamo di diventare cinici, di diventare insensibili, di mancare di quella empatia che ci permette di connettere ad altre persone. Quindi quello che io voglio dirti questa sera è che le emozioni non sono sbagliate. Va bene che tu vivi emozioni, va bene? Siamo d'accordo su questo? Va bene che tu vivi le emozioni. Quello che però voglio dirti questa sera è che non va bene che tu sei guidato dalle emozioni. Non va bene che tu sei trascinato dalle emozioni. Non va bene che le emozioni, come un fiume in piena, ti trascinano in ogni parte, in ogni dove, facendoti fare le scelte più sbagliate, facendoti dire le parole più sbagliate e facendoti agire in una maniera incontrollata. La parola di Dio dice, e la parola di Dio stabilizza le nostre vite, in Proverbi al capitolo 25-28, l'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura. Ve lo rileggo. L'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura. La Bibbia parla continuamente di autocontrollo. Lo fa nel Vecchio Testamento, lo fa nel Nuovo Testamento, costantemente parla di questo privilegio che i figli di Dio hanno di poter vivere una vita autocontrollata. E l'autocontrollo è proprio la capacità di gestire le emozioni, la capacità di leggere le emozioni, la capacità di non lasciarsi trascinare dalle emozioni. Quindi non essere una città priva di mura. Pensate alle città antiche, ora è un po' diverso, no? Non abbiamo più le città fortificate con le mura, ma all'epoca le città antiche avevano le mura e le mura erano l'unico mezzo per difendersi realmente dai nemici. Le mura erano ciò che tenevano la città unita, controllata e sicura. Dio vuole che tu abbia una vita, un cuore sicuro. Lui vuole che tu abbia una famiglia controllata, sicura, e per vivere questo hai bisogno di mura, e le mura sono l'immagine dell'autocontrollo nella tua vita. Se manchi di mura, che cosa succedeva nelle città antiche? Senza mura venivano i ladri, venivano i nemici, portavano distruzione, portavano divisione, entravano nelle case e operavano violenza. E questa è l'opera del diavolo nella nostra vita. Quando siamo incontrollati, lui porta devastazione, rovina. Lui ci deruba delle benedizioni che Dio ha per te. Le benedizioni che Dio ha per te sono ben sicure quando tu hai autocontrollo. L'autocontrollo è il privilegio del credente. I cristiani a volte passano da quella che è una vita completamente motivata e guidata dalle emozioni, scambiando le emozioni per la guida dello Spirito Santo, oppure a rigettare tutto questo, no? Anche le chiese a volte si dividono in queste due posizioni: chi è estremamente emotivo e dove Dio è presente solo se senti qualcosa, avverti qualcosa, ti viene la pelle d'oca, no? Dice oggi la lode adorazione, nella lode adorazione di stasera c'era Dio, in questa chiesa c'è Dio. Perché? Perché mi è venuta un'emozione particolare, mi si sono alzati i peli delle braccia, ho avuto la pelle d'oca, Dio è in questo luogo. E la domenica successiva questo non accade, dice Dio non è più in questo luogo, perché viviamo di emozioni. Io so che Dio è qui e Lui dimora, come dice nella parola di Dio, nelle lodi del suo popolo sempre. Io alzerò le mie mani quando sento l'emozione del momento e quando non lo sento, perché io sto adorando un Dio che so che è presente. Non ho bisogno di emozioni per comprenderlo. Non essere trascinato dalle emozioni, non essere trascinato dall'emozione di un brano, non essere trascinato dalle emozioni di quello che si crea come atmosfera. Scegli di vivere l'adorazione quale principio della tua vita. Scegli di dipendere dalla chiesa e dagli incontri di chiesa come principio della tua vita. Non permettere mai al maligno di portarti a credere: in chiesa non sto ricevendo più niente, è inutile che vado. Tu non vieni qui per delle emozioni, tu vieni qui per una scelta, per il principio, per un comandamento, per la volontà tua esercitata con disciplina di voler seguire il Signore e metterlo al primo posto. Amen? Watchman Nee è un meraviglioso cristiano che ha vissuto il secolo scorso, un cristiano cinese che è stato per 20 anni in carcere, un meraviglioso operaio di Dio, e ha scritto un bellissimo libro che si chiama L'uomo spirituale. E in questo libro lui fa questa affermazione, ve la voglio leggere perché è un'affermazione che io spero possa entrare nella tua mente e nel tuo cuore e stabilire una scelta chiara a partire da stasera. Watchman Nee scrive: l'uomo che vive di emozioni è un uomo senza principi. Ve lo rileggo. L'uomo che vive di emozioni è un uomo senza principi. C'è una battaglia fra i principi e quelle che sono le emozioni. Quando tu sei trascinato dalle emozioni, vai su e giù, vai a destra e a sinistra, fai un passo in avanti, 10 indietro, e poi vai a sinistra e poi a destra. Quando vivi di principi, la tua vita riga dritto e va di gloria in gloria, in gloria, in gloria. Dio vuole che tu sia un uomo di principi. Dio vuole che tu sia una donna di principi, che sceglie Dio non per un'emozione di una stagione, ma sceglie Dio a ogni costo, in ogni stagione e attraverso ogni sfida. La scorsa settimana abbiamo sentito la testimonianza meravigliosa di Nico Battaglia, un uomo che vive di principi. E io sono orgoglioso di avere lui come amico, perché è un uomo, è un esempio per me, per la mia vita, perché lui è un adoratore di principi. Lui ha scelto di adorare quando aveva la voce e ha scelto di adorare quando lo stavano operando nella sua bocca e non aveva la possibilità di esprimersi con la voce. Lui ha scelto di adorare Dio quando la stagione era facile e lui ha scelto di adorare Dio quando era nel mezzo di una devastante malattia, quale il cancro alla sua lingua. Se non hai sentito la sua testimonianza, ti invito a farla su YouTube. Questa è l'unica cosa che ti concedo di fare, vedere le prediche che hai mancato, ma le prossime vivile tutte in chiesa. Dio vuole che tu sia un uomo, una donna di principi. Non vivere di emozioni. Nella Bibbia troviamo tanti personaggi biblici che erano trascinati dalle emozioni e non andava bene la cosa. Pensate al popolo di Israele, esce fuori dal Mar Rosso, dopo aver visto la mano potente di Dio che l'ha liberato dalla schiavitù d'Egitto, dopo aver visto letteralmente il mare aprirsi davanti a loro, formare due mura enormi e passare attraverso il mare, che cosa fanno? Come giusto che chiunque faccia nel momento in cui vede un'opera potente di Dio, cominciano a lodare, cominciano a danzare, cominciano a fare musica con i tamburelli, è una celebrazione meravigliosa. Passano solo pochi giorni e lo stesso popolo che trionfava, che celebrava, che gioiva, che era all'apice delle proprie emozioni, si ritrova a disperarsi, a deprimersi, a mormorare, ad accusare i propri leader, a giudicare il fatto che si ritrovano ora in un deserto e temono per la propria morte. Ma se Dio avesse voluto che loro morissero, l'avrebbe fatto già molto prima. Eppure questa è l'emotività che noi tutti dobbiamo riconoscere che viviamo anche nella nostra vita spirituale. Ed è grave. Saul, appena incoronato re, si ritrova davanti a una battaglia. In questa battaglia si ritrova davanti a un esercito numerosissimo, quello dei Filistei. Talmente numeroso che il popolo di Israele se la dà alle gambe e si nasconde nelle caverne. E questo è quello che leggiamo. E Saul, in quel momento, per ansia, un'ansia, una preoccupazione, incomincia ad avere fretta. Quando tu hai ansia nella tua vita, quando tu hai preoccupazioni nella tua vita, emozioni, tu sei portato ad avere fretta e nell'avere fretta puoi fare le decisioni peggiori. Saul per la fretta, perché non aveva più pazienza di aspettare il profeta Samuele affinché lui venisse ad offrire l'olocausto, il sacrificio. Offre lui stesso il sacrificio, disubbidisce a Dio, disubbidisce al profeta Samuele e da quel momento in poi la sua storia è in declino. Il diavolo vuole utilizzare le instabili emozioni che noi viviamo, quali ansia, fretta, preoccupazioni, per sabotare il nostro percorso di vita. Non permettere a Satana di fare questo. C'è il pastore Rick Warren, che ha dato questa ha detto questa frase. E cito, l'arma preferita da Satana, ascoltatemi bene, l'arma preferita da Satana per condizionare la tua vita sono le emozioni negative. A volte noi pensiamo che il diavolo viene solo tentandoci, portandoci situazioni difficili, portando malattie, circostanze che non riusciamo a gestire, ma l'arma preferita di Satana sono le nostre emozioni senza autocontrollo, le nostre emozioni negative, le nostre emozioni di stress, preoccupazione, ansia, che ci porta a tralasciare tutte le verità della Bibbia e a dipendere da esse, e che ci portano poi a fare le scelte più sciagurate. Il popolo di Israele, Saul, e che dire di Giona? Ricordate la storia di Giona? Giona è il personaggio probabilmente più emotivo che noi troviamo nella Bibbia. Un uomo che era in grado di passare dalla gioia più estrema alla depressione con pensieri e dichiarazioni suicide. Letteralmente, se andate a leggere la storia, molto breve, vi invito a farlo. Lui si ritrova ad essere coperto da una pianta che Dio fa crescere, coperto, no? Dall'ombra di questa pianta, perché soffriva il caldo, un po' come tutti noi stasera, ed era sollevato, pieno di gioia, come se qualcuno attivasse ora l'aria condizionata, no? E questo è quello, il dono di Dio. Signore, se lo vuoi fare in questo momento, saremmo grati. Cioè, è azionato l'aria condizionata per Giona, ma qualche istante dopo ha fatto morire quella pianta. E io credo che Dio l'abbia fatto per una ragione specifica. Perché lui è un padre buono che vuole disciplinare i propri figli. Ha fatto morire quella pianta per stabilire, per cercare ancora di dare una lezione a Giona che non doveva dipendere dalle sue emozioni. La pianta muore e Giona chiede a Dio, ammazzami ora perché è insopportabile questo caldo. Voglio morire, la vita non ha più senso. Incredibile, è ridicolo quasi, eppure è proprio così. Giona è stato quel personaggio che quando Dio, la storia comincia così, che Dio rivolge la sua parola a Giona e dice vai a Ninive. Giona si alza, prende la prima barca per Tarsis, direzione opposta. Perché? Sapete perché? Non perché aveva paura. Molto interessante vedere la storia di Giona, perché Giona non era un personaggio che aveva paura. Questa almeno non ce l'aveva come cosa. Semplicemente non voleva andare a Ninive. Semplicemente non gli andava di fare quello che Dio gli aveva chiesto di fare. E nel suo fare una scelta condizionata da come si sentiva, perché in quel momento non si sentiva di andare a Ninive, si sentiva di andare a Tarsis, quello che succede è che questa imbarcazione, questa nave, si ritrova in una tempesta e tutto l'equipaggio insieme a Giona è in pericolo di vita in questa tempesta minacciosa. Quando tu scegli nella tua vita di agire secondo come ti senti, come ti va di fare le cose, senza principi ma motivato dalle emozioni, tu ti ritroverai in una tempesta e purtroppo, molto probabilmente, porterai in quella tempesta altre persone vicine a te. Non vivere per emozioni, non farti guidare da ciò che ti va di fare o non ti va di fare. Oggi non mi va di leggere la Bibbia, oggi non sento l'emotività che mi spinge a leggere la Bibbia. Sapete, è da anni che mi è passata quella emotività che mi portava a leggere la Bibbia. Oggi per me è una disciplina quotidiana, è una scelta di principi. Non puoi leggere la Bibbia solo quando ti va di farlo. Non puoi pregare a Dio solo quando ti va di fare. Non puoi dipendere da Lui solo quando ti va di fare, quando ti va di ubbidire, quando senti l'emotività giusta o perché ti ritrovi in un ritiro e qualcuno ti sta guidando a fare una determinata cosa. Deve essere un tuo principio, perché quel principio porterà benedizione e vita. È per il meglio, non è per il peggio. Ogni comandamento di Dio è per il nostro meglio. Sii un uomo, sii una donna di principio. Vuoi ripeterlo con me? Io sarò, ripeti con me, io sarò una donna o un uomo di principio. Ripetilo, io sarò un uomo di principio. Sii determinato a disciplinare la tua vita. Vale per leggere la Bibbia, vale per pregare, vale per venire in chiesa, vale per partecipare ai gruppi, vale per servire, vale per dare le tue finanze a Dio, vale per la scelta di rimanere in un patto, in un vincolo di matrimonio, non perché hai l'emozione e la sensazione giusta per viverlo, ma perché tu hai fatto un patto davanti a Dio e lo mantieni perché sei una persona di principio e non sei mosso dalle emozioni, dalle farfalline allo stomaco che oggi ci possono essere, domani svaniscono. Tu scegli di mantenere la tua vita dritta per principi secondo la volontà di Dio, e anche quando è difficile, quei principi a lungo andare produrranno benedizione nella tua vita. Amen. Gesù viveva così. Nel Getsemani Gesù dice: Signore, se è possibile, fammi passare oltre questo calice. Non farmi soffrire, non farmi appendere a una croce, non farmi soffrire il tormento, la tortura delle flagellazioni che mi stanno davanti. Se è possibile che tutto questo passi oltre, poi aggiunge una preghiera che noi tutti dobbiamo fare, ma non la mia volontà. Non la mia volontà, perché in questo momento forse io sono angosciato, ho paura. Sono oppresso da quello che mi sta davanti, da questo sacrificio, da questo dolore, ma io voglio essere un uomo di principio, io voglio fare la tua volontà anche quando c'è un costo da pagare, perché alla fine questo produrrà benedizione nella mia vita. Amen? Sii un uomo, sii una donna di principio. Ora, come possiamo gestire queste emozioni? Abbiamo parlato di questi personaggi, abbiamo parlato del loro cattivo esempio, potremmo citarne altri, quale Pietro che ora difende Gesù, ora lo tradisce, pochi istanti dopo. Potremmo parlare di tanti altri personaggi, ma io voglio portarti alla riflessione di come puoi gestire le tue emozioni, e c'è un intero libro che è pieno di indicazioni a riguardo, ed è il libro dei Salmi. Un libro pieno di emozioni che vengono gestite e autocontrollate nella maniera giusta. Come puoi controllare le tue emozioni? La tua rabbia, il tuo dispiacere, la tua tristezza, il tuo eccessivo entusiasmo, qualsiasi emozione è invadente e ti porta a fare scelte, la prima cosa è esprimile in preghiera. Esprimile in preghiera. Il posto migliore per esprimere le tue emozioni non è necessariamente con tuo marito, non è necessariamente con tua moglie, non è necessariamente con un'altra persona, magari il vicino di casa che non c'entra niente, ma per una volta che ha steso il suo panno e ti ha dato fastidio, si becca tutta una ramanzina che è il bagaglio di mesi di pesantezza che ti sta sullo stomaco e lui non c'entra niente. No, non è quello il posto migliore per sfogare le tue emozioni. Il posto migliore per sfogare le tue emozioni è alla presenza di Dio in preghiera. Leggete con me il Salmo 69, versetto 29. Il salmista dice: io sono misero e afflitto. Dio, io mi sento misero e afflitto, afflitto in questo momento. Il tuo soccorso, Dio, mi porti in salvo. Sapete, anche i professionisti, anche le persone che fanno terapia, quello che consigliano di fare con l'emozione è dargli un nome. Dai un nome alla tua emozione. È il posto migliore farlo in preghiera. La Bibbia ce lo insegna in questo verso e in tanti altri. Davide si è dovuto fermare e dire: che cos'è che sto vivendo in questo momento? Sto vivendo afflizione e mi sento misero, mi sento povero, mi sento vuoto, mi sento che non ho niente. Qual è l'emozione che stai vivendo? Dagli un nome, è importante. Che cosa stai vivendo? Sei arrabbiato? Riconosci che c'è rabbia dentro di te. Mentre preparavo questo messaggio, non potete capire che cosa è successo nel mio ufficio. Ho cominciato a elencare tutte le emozioni che stavo vivendo, altalenanti, tutte le ho elencate. E detto: Signore, io mi sento così, però mi sento anche così, mi sento un po' così e un po' così, ma come mi sento, Dio? E poi ho capito, No, non mi sento così e così. Mi sento così. E ho bisogno del tuo aiuto in questo. Dai nome all'emozione che stai vivendo. E vivila in preghiera. Esprimi in preghiera. Un altro consiglio che leggiamo nei Salmi è: sottometti a Dio la tua emozione. Il tuo autocontrollo. Puoi fare tutti gli esercizi di questo mondo e io ti incoraggio ad essere autocontrollato con la tua forza. A volte la tua forza può darti molto autocontrollo, però se c'è uno che garantisce sempre autocontrollo nella tua vita è Dio stesso, è lo Spirito Santo. E qui il salmista dice: nel giorno della paura io confido in te. Nel giorno della paura, nel giorno in cui io sono impaurito, io confiderò in te. Oppure il Salmo 31,5: nelle tue mani rimetto il mio spirito. Sottometti a Dio la tua rabbia. Signore, ho rabbia, la sottometto a te. Ti chiedo di risolvere questa rabbia. Ti prego di togliere questa rabbia. Io voglio il tuo aiuto. Elabora quello che è le emozioni e sottomettila a Dio. Fatti delle domande. Fai delle domande a te stesso. Ti puoi aiutare in questo. Puoi farti la domanda e chiederti: perché sto provando questo? Perché c'ho questa rabbia? Quando preghi, quando sottometti a Dio, quando sei alla sua presenza, puoi dialogare, no? E puoi chiederti: perché? Perché sto vivendo questa rabbia? E puoi andare a scavare. Oppure ti puoi fare una domanda come questa, come la seguente: ha una verità questa emozione? Ha ragione di esserci questa emozione? È veramente così grave la situazione? Per tornare al fatto che le emozioni non sempre rappresentano la realtà per quella che è, non sempre dicono il vero, chiediti: è vera? È vera questa cosa? Ha una base di verità questo sentimento, questo stato d'animo? E poi una domanda che mi piace tanto, che vi incoraggio a fare, è: questa emozione mi fa bene o mi fa male? È una buona domanda da fare. È una buonissima domanda da fare. Mi fa bene questa emozione? Perché se ti fa bene, può darsi che è lecito averlo. Signore, sono così entusiasta, felice, contento, e la mia contentezza viene dal fatto che ho una macchina nuova, meravigliosa. Adesso voglio una barca, adesso voglio una barca nuova, devo inseguire quell'acquisto, sta per uscire l'iPhone nuovo, io voglio quell'entusiasmo, voglio quella stessa gioia. È lecito avere gioia su cose materiali. Non basare la tua gioia su questo. Sapete, coloro che ci vendono le cose sanno manipolare bene i sentimenti, e lo fanno per rubarci anche soldi. Fai acquisti solo quando è necessario farli. Quanti sanno che hanno fatto un acquisto di qualcosa che non serviva a nulla, però qualcuno ti ha convinto, sei stato manipolato nelle emozioni? Quanti possono confessare con me di aver fatto un acquisto, dopo qualche mese, qualche settimana, dici: ma perché l'ho comprato? Ma come si fa il reso di questa cosa? Fatti questa domanda: questa emozione mi aiuta o mi nuoce? Ultimo punto, e qui ti voglio incoraggiare. Qui ti voglio incoraggiare tanto, è: reagisci, reagisci, puoi reagire, reagisci. Se c'è una cosa che voglio che rimanga di questo messaggio è proprio questo appello: reagisci, dovunque ti trovi, dovunque mi stai ascoltando, in questo momento reagisci, prendi te stesso e reagisci. Io mi ricordo che ero in una situazione di depressione, di angoscia, e stavo sfogando, stavo piangendo ed ero con questo fratello, e a un certo punto questo fratello mi ha messo la mano sulla spalla, e al posto di avere empatia nei miei confronti, è giusto averla, per piacere abbiate empatia anche con me quando piango, però in questa occasione questo fratello, guidato per mia convinzione dallo Spirito Santo, mi ha detto semplicemente: Mirko, riprenditi. E non lo so come quella parola ha messo in me fiducia nel credere che io potevo riprendermi. E mi sono ripreso. È straordinario come le emozioni a volte sono proprio vapore, che basta accendere un ventilatore e svanisce quel vapore. Riprenditi, lo puoi fare. Come lo puoi fare? Predicando a te stesso. Il salmista dice: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Questa situazione non è la fine della mia vita. Questa situazione non ha il potere di distruggermi, perché come Lui mi ha liberato dalla zampa del leone, dalla zampa dell'orso, mi libererà dalla mano. Ah, c'era qualcuno presente in quel messaggio. Lui è presente, Lui è continuamente presente. Tu lo celebrerai ancora. Anche in questa situazione il diavolo non ha la meglio, perché tu appartieni a Dio e Lui ti dà la forza di reagire. Reagisci, parla alla tua anima, parla alle tue emozioni, incomincia a dire: basta rabbia, non hai ragione di esserci, io voglio autocontrollo, io voglio mansuetudine, tu non hai ragione di dominare su di me, basta, basta depressione, basta scoraggiamento, io ho motivo di essere gioioso, io ringrazio il Signore per le cose che ho, per le tante benedizioni che Lui mi dà, non voglio concentrarmi sulle cose che non ho più, o che non ho, o che non ho mai avuto, perché non ha ragione stare in questa condizione. È solo una condizione nella quale il diavolo mi vuole mettere, perché vuole sabotare il mio futuro e il mio destino in Cristo Gesù. Reagisci, puoi dirlo, metti la mano al tuo fratello che ti è vicino e dici: reagisci, reagisci, riprenditi il controllo, lo puoi fare. Il frutto dello Spirito, dice la parola di Dio, è amore, gioia, pace, è benignità, bontà, fedeltà, è gentilezza, è mansuetudine, è autocontrollo. Lo Spirito Santo ci dà quale frutto nella nostra vita? Autocontrollo. Lo Spirito Santo, te lo ripeto questa sera, non viene solo per darci doni, carismi, per farci operare potentemente, secondo la guida di Dio, nella potenza del battesimo dello Spirito Santo, ma fa un'altra cosa, ancora altrettanto preziosa. Ci dà autocontrollo, ci dà mansuetudine. È un dono, è un privilegio che tu hai. Afferralo, se è un dono, se è un frutto, lo puoi ottenere. Se riconosci questa sera, non ho mura nella mia vita, non c'è autocontrollo, chiedi allo Spirito Santo, Lui ti darà autocontrollo. Voglio aprire una breve parentesi. Per tutti i leader nella nostra Chiesa, per tutti coloro che hanno una responsabilità nella Chiesa, nel momento in cui tu hai una responsabilità di un settore, hai una responsabilità su un gruppo familiare, su persone, ti ritrovi a gestire non solo più le tue emozioni, ma le emozioni degli altri. E io potrei parlare a lungo di questa cosa, ma sarò breve, voglio darti un incoraggiamento. In questa stagione nuova che si apre, ora che i gruppi familiari cominciano di nuovo, questa settimana ci sono, e potrete insieme parlare di questo messaggio, pregare insieme alla luce di questo messaggio. Però per te che sei leader, che hai un ruolo di influenza nei confronti degli altri, ti posso incoraggiare ad alzare bene queste mura. Perché sai, nel momento in cui tu hai a che fare con tante persone, queste persone verranno per scaricare la loro emotività. Verranno con la rabbia che vivono, verranno con la tristezza che provano, verranno da te con il rancore accumulato, la gelosia, l'invidia, l'ira, la collera, tante emozioni di vario tipo che tu devi gestire. E in quel momento, quando ti ritroverai a gestire queste persone, io ti voglio incoraggiare ad utilizzare l'autocontrollo, ad alzare bene le tue mura, a non essere travolto in questa emotività che ti viene scaricata addosso. A volte ci vengono raccontate delle storie pesanti, e vengono raccontate con enfasi, perché vengono raccontate alla luce di un'emotività. E quando ascoltiamo quelle storie, quello che può nascere in noi è subito una reazione. Perché quando c'è una forte emozione, anche tu ti senti di reagire con una forte emozione, per piacere. Se vuoi fare bene quello che Dio ti sta chiedendo di fare, in questa chiesa, essere un buon leader, essere una buona guida, non rispondere emotivamente, non rispondere troppo frettolosamente. Ascolta e elabora. E se non senti da parte di Dio pace nel dare indicazioni e delineare una strada per delle scelte, non farlo. Perché è probabile che tu darai delle opinioni e farai fare delle scelte alle persone che Dio ti ha affidato, mosso tu a tua volta dall'emotività del momento. Magari hai necessità di ascoltare un'altra versione della storia. Forse hai necessità di portarti quella storia a casa, parlarne con tua moglie, pregare su e poi dare una risposta. Non muoviamoci emotivamente, perché questa chiesa vuole andare di gloria in gloria, e per farlo le emozioni non hanno un ruolo, anzi sono uno strumento che il maligno può adoperare per portarci in direzioni sbagliate. In questa chiesa andremo di gloria in gloria nel momento in cui ascolteremo la voce dello Spirito Santo. Quindi ascolta, sii lento a rispondere, prega, e se hai la possibilità di dare un consiglio, dallo, ma non mosso da un'emotività. Questo è un consiglio che voglio darti, perché so che quello che stai facendo lo stai facendo con tutto il cuore, e lo stai facendo per Dio e per le persone che guidi. A volte è talmente qualcosa fuori dalla nostra portata gestire le emozioni degli altri, ma insieme con lo Spirito Santo lo possiamo fare. E voglio incoraggiarti. Cerca la pace di Dio. Puoi ministrare agli altri, puoi essere un leader per gli altri avendo pace nel cuore. Puoi non rispondere a tutte le chiamate, puoi non rispondere a tutti i messaggi, puoi aspettare, puoi darti una pausa, puoi darti un riposo, se necessario fallo. Vivi con il Signore il compito che Lui ti ha affidato, e non essere portato tu attraverso il ministero ad emozioni che sono lontane dalla volontà di Dio per te. Lui si vuole servire di te e ti vuole dare lo Spirito Santo per farlo bene. E quando vivi stress, ansia, preoccupazioni per quello che è una cosa che Dio ti ha affidato, è buono che rielabori tutto, lo fai nella tua stanzetta e chiedi la giusta strada a Dio per essere un uomo e una donna di principi e non guidato da emozioni. Amen? Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Se questo messaggio sai che era da parte del Signore per te questa sera, io voglio chiederti di alzare le tue mani in questo luogo, dovunque ti trovi, e voglio pregare brevemente per te. Chiudiamo tutti i nostri occhi, e se sai che vuoi a partire da stasera avere mura più solide, più alte, vivere autocontrollo, non essere guidato dalle emozioni, allora alza le tue mani, voglio pregare per te. Padre, tu vedi i tuoi figli qui arresi alla tua presenza. Io benedico le loro vite, io benedico le loro scelte, io benedico il percorso che sta davanti a loro, e io ti prego di calmare le acque turbolenti, di calmare gli spiriti agitati, di calmare l'anima che è presa da emozioni contrastanti. Io prego il tuo riposo, quel riposo straordinario che solo tu sei in grado di dare. Porta riposo nella tua chiesa, porta riposo a questi tuoi figli e queste tue figlie. Permetti a loro di essere autocontrollati e guidati da te in ogni scelta. Io prego, Gesù, che ogni nostra scelta possa essere guidata da te. Spirito Santo, questa è la mia preghiera per la nostra chiesa. Guidaci tu. tu, non permettere che siamo guidati dalle emozioni e dai turbamenti del momento, vogliamo essere guidati da te, Spirito Santo. Vieni e dacci il tuo frutto, che il tuo frutto possa esplodere in noi e possa permetterci di essere autocontrollati in ogni cosa, in ogni giorno e anche in questa nuova stagione. Prego per chi sta per cominciare la scuola, prego per chi sta cominciando un lavoro o ha una situazione precaria, ha una situazione che è indefinita, è disorientato. Io prego la tua pace, che sorpassa ogni intelligenza e custodisce i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù, che possa scendere e ministrare ora nella vita di ogni persona che è qui presente. Nel nome di Gesù prego questo. Amen. Amen. Vogliamo stare ancora alla sua presenza. Vogliamo ora stare in comunione con Lui. Fai tu la tua preghiera a Dio, alla luce di quello che hai ascoltato questa sera. Vogliamo adorarlo e stare ancora qualche attimo alla sua presenza.